e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cuore Denari. Che cosa ridi? Per tutte le chiacchiere che stavamo facendo prima della sigla di apertura. È un segreto. Ma non tanto, perché abbiamo condiviso il nostro gossip su Facebook con il nostro live. Chi ci segue su Facebook avrà avuto modo di apprezzare gli approfondimenti che stavamo facendo. E chi non ci segue, peccato. Chi tardi arriva, male alloggia. Da domani tutti su Facebook a guardare il nostro chiacchiericcio iniziale, ma in realtà introduceva i temi di oggi, Nicoletta, no? Oggi è giovedì, quindi gnocchi, non solo. Investire informati, parleremo dei piani individuali di risparmio, nuovi strumenti di investimento pronti a partire, con tanti pregi ma anche con tanti difetti già ampiamente segnalati dalla stampa. Invece, allora, noi intanto che aspettiamo di sederci tra i banchi della scuola di risparmio, ci facciamo belle, almeno ci proviamo. È il momento giusto. Sanremo è un giro di boa, siamo ancora in inverno, ma laggiù in fondo si intravede la primavera, quindi meglio organizzare un piano detox per pelle e capelli. E per chi, oltre a una buona manutenzione, sta un po' accarezzando l'idea di lanciarsi in un programma di ristrutturazione, legasi cancellare macchie, risolvere il problema dei peli superflui, che poi tanto superflui non sono, noi li chiamiamo così, affrontare a tu per tu la cellulite, bene, questo è il momento giusto, senza contare che mancano pochi giorni a San Valentino, Deborah, e anche se noi diciamo sempre siamo convinte sostenitrici della tesi belli dentro, non ci dispiacerebbe almeno l'occasione provare a essere anche belli fuori. Voi che dite? Allora, ma soprattutto, come siete? Siete più Carlo, mori, scuri, abbronzati, o Maria, chiari, delicati, biondi? Buongiorno alla dottoressa Sparavigna, dermatologa. Buongiorno, buongiorno. Salute. Chi ci ha seguito su Facebook ha sentito anche i suoi commenti. Quanto sono belli, dicevamo, i maschi, gli uomini a Sanremo. Veramente. Beh, ne abbiamo visti uno più bello dell'altro. Sì. Questa è un'evoluzione importante. E io sono sempre convinta che la bellezza esteriore rifletta un equilibrio interiore, e in questo Sanremo vedo molto questo equilibrio, sia nei conduttori sia negli ospiti, ed è una cosa che mi fa molto piacere, perché parla di emancipazione delle persone. È vero. Allora, 800 24 00 24, anche noi abbiamo il bel Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica. Ma noi abbiamo, se certo, ce lo invitano a Sanremo ce lo rubano. 349 238 6666, magari mandiamo anche una foto, Filippo, che dici? Ma sì, dai, buttiamoci. 349 238 6666. No, perché sennò conoscono solamente Peter Bescapella, Alpino del Mattino, perché lo richiamano tante volte, no, Alessandro, ma i nostri nessuno li conosce. No, dobbiamo, allora, invece Filippo, fotografarli. Certo. Filippo, Carmelo, spesso Paolo Corleoni, e quindi il trio, vedi, verrà svelato alle come il trio romano di ieri sera a Sanremo. Esatto. Tutti e tre. Esatto, Cirilli, Cirilli, e il terzo che non mi ricordo adesso che ho il nome. Insin. Flavio Insinna. Tutti e tre della scuola di Proietti mi sono piaciuti molto. Beh, come mi piacciono molto Carlo e Maria. Carlo e Maria. Insomma, dottoressa Sparavigna, i dermatologi hanno l'occhio lungo, perché a forza di ispezionare cute capelli basta un'occhiata per inquadrare tipo e fototipo, che è il primo passo, immagino, per organizzare anche un piano di intervento. Carlo, tipo mediterraneo, pelle abbronzata, capello scuro. Allora, diciamo che noi dermatologi in queste occasioni facciamo gli straordinari, perché comunque osserviamo da un punto di vista professionale. Non conosco personalmente il signor Conti, però devo dire che se è vera la storia delle lampade, come credo sia vera, devo anche dire che lui se la può proprio permettere, cioè la sua pelle consente di avere un'abbronzatura tutto l'anno, perché al di là di quello che può essere il trucco televisivo, se lo guardiamo bene non ha segni di cedimento, ha, certo, un bellissimo aspetto, soprattutto se rapportato all'età. Per cui il signor Conti, al quale comunque consiglio di non esagerare col sole e con le lampade, secondo me ha una buona cura della propria pelle, e quindi è un bel esemplare di cinquantenne over 50. Over 50. Andiamo a Maria. Io ho un debole per Maria. Anch'io, mi piace anch'io. Molto. Mi piace come si muove sul palco, il modo in cui anche affronta le interviste. Deborah è un'ottima, è un'eccellente professionista. Sì, sempre misurata, mai una parola fuori posto, sempre, come dire, contenuta nell'essenziale dei suoi ragionamenti, delle sue interviste, appunto. Vista da un punto di vista dermatologico, equilibrio e sobrietà. Quindi anche lei, posso immaginare che il tipo di cura della sua pelle è un tipo di cura soprattutto di prevenzione, di mantenimento, ma senza stravolgere. E quindi può essere un ottimo esempio per evitare la deriva alla quale stiamo assistendo. In fondo è un festival dove si vedono pochi rifatti. Certo, sì, è vero. Ah. E poi se hai notato anche le braccia di Maria sono perfettamente toniche. Mamma, certo. Perché cade l'occhio, eh? Invece ha delle braccia perfette, segno che lavora anche in palestra, anche. Ma credo che sia lei anche... sia molto, un... mi sembra anche, tra l'altro. Sì, che sia anche un aiuto che arriva dai geni, perché è molto, no, ha un fisico molto atletico. E sicuramente. Poi è una persona molto equilibrata, e questa bellezza interiore si riflette all'esterno. Allora, e voi 800 24 00 24 che tipi siete? Volete mandarci una vostra foto? Facciamo anche noi un Sanremo su Facebook. Adesso io chiedo, Deborah, una foto anche alla nostra amica Marta, che è in linea con noi da Sanremo. Ciao Marta! Che se anche ha fatto notte fonda, allora, sarà sempre bella. Marta, allora, sì, allora, ho mandato chi hai baciato? Per il GR delle 7 alle 3.45. Questa mattina alle 9:15 ero già in piedi, perché adesso ho già fatto la prima intervista del mattino a Michele Bravi, che ha 20 anni e che sembrava una bambola di porcellana. Io da un po' più di 20, un po' più di 40, però dai, mi difendo ancora. Senti, allora ti faccio dare subito un consiglio, poi ci dici chi ti ha baciato e chi sei riuscita a baciare tu, perché è stato anche una serata di baci. Tutti mamma noi avremmo mia. Voluto essere Maria in quel l'invidia momento. Ieri sera esplodeva. Eravamo verdi di invidia. Allora, dottoressa Sparavigna, Marta sta facendo i super straordinari. Ci si corica la sera tardi, al mattino subito pronta per intervistare i vippettoni sanremesi, e deve sfoggiare naturalmente un aspetto fresco e riposato. Lei i segreti ce li ha. Allora, il primo segreto, la prima cosa che posso consigliare a Marta: l'anno prossimo vado con lei. Sì. E così quindi faccio... ti porti la dermatologa, una derma amica. Perché io sono una fan sfegatata di Sanremo, non sono mai riuscita a essere presente. Quindi, al di là di tutto, al di là degli scherzi, direi che in questo momento lei debba comunque curare molto molto l'alimentazione. Mm-hmm. Che sia un'alimentazione leggera, ma anche molto detossificante, quindi anche ricca soprattutto di sali minerali, ricca di vitamine, idratarsi. Bevi, sì, acqua, sì. bevi. Sì, Marta, sì. Stai bevendo? Ok, ecco. Sì, sto bevendo, e ho preso da un po' l'abitudine, non so se buona o cattiva, quando c'è un po' di fame, la stanchezza, io tengo delle bustine di frutta secca in borsa. Fantastico. Ma guarda come si stanno, ma d'altronde cuore è la nostra grande, grande fan, Marta, lo sappiamo. Quindi acqua, ma io volevo qualche cosa di più spintino, dottoressa Sparavigna. Quelle cose che vai a letto quando ti strucchi, sei la strega nocciola, al mattino ti svegli e sei Biancaneve. C'è qualche cosa che Marta non ha bisogno perché è giovane, ma abbiamo parlato di Carlo e Maria che sono over 50, sono di quelle fantastici anni 60 che sono gli anni migliori. Sono venuti fuori le persone fantastiche. Ecco, che cosa c'è, Marta? Vado su qualche cosa di un pochino più strong per restituire una freschezza al viso in tempi rapidi. Ci sono i prodotti urto, quindi prodotti che per esempio ridonano una idratazione potenziata alla pelle. Possono essere delle maschere, possono essere dei sieri illuminanti. se c'è qualche rughetta, sappiamo benissimo, e ne abbiamo già parlato anche altre volte, di quei sieri che riescono meccanicamente a stirare la cute, ma attenzione, quelli non sono curativi, però per essere belli in forma Marta, stai con noi perché adesso poi ci racconti bene qualche gossip, naturalmente sul profilo non solamente della musica ma della beauté, perché noi vogliamo in questa puntata acquisire tutti i segreti per una bellezza sanremese. A tra poco. Carlo e Maria, Maria e Carlo. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, in linea con noi abbiamo Marta Cagnola. I nostri ascoltatori ci stanno mandando le foto, vogliono sapere i nomi dei sieri, mentre Fabio è già bello, non è interessato. Salutiamolo. Marta, buongiorno. Raccontaci, ecco, raccontaci della bellezza sanremese. Intanto io sono un po' arrabbiata, perché tutti che dicono ma mancano le bellone, mancano... Secondo me la bellezza può essere di tanti tipi, cioè non ci deve essere per forza la bellona con i super vestiti come era un tempo. A me piace invece vedere, e non è retorica, lo dico sinceramente, tante donne, tanti uomini diversi sul palco. Allora, ci sono i giovani, cioè ad esempio secondo me Elodie è di una bellezza assolutamente surreale. Sì. Tra l'altro abbiamo fatto un'intervista poco prima di partire per Sanremo, l'abbiamo fatta a Milano ed è sul sito del Sole 24 Ore, e la prima parte dell'intervista, cioè io continuavo a dirle sei troppo bella, e lei è di una bellezza incredibile, ha una pelle perfetta, questi occhi enormi, ed di, è un, colore, di un colore particolare, sembra quasi con pagliuzze dorate. Sì, lei è straordinaria. Sai che hai i capelli un po' rosa. Rosa, sì. Quindi ci è piaciuta molto. Poi hai detto... Ci è piaciuta molto. Poi ci sono le bellezze delle trentenni. Mm. Trentenni, insomma, sono ormai la trentenne, che dire. Io mi stupisco quando sui giornali dicono ancora bella 30, ancora bella 40. Ma le donne sono obiettivamente belle a 30, 40, anche a 50 anni. Non belle per avere 50 anni. E poi, secondo me, ci sono due donne che, non lo so, io trovo meravigliose, e che sono Paola Turci, che è favolosa, cioè di una bellezza incredibile, e Fiorella Mannoia, che tutti poi vanno a controllare su Wikipedia quanti anni ha. Ragazzi, Fiorella è così, è la magnificenza. E se posso dire, invece, ho saltato le quarantenni, le mie coetanee, la mia coetanea perfetta, meravigliosa, Paola Cortellesi. No, è di una bellezza. Le parlavamo con ieri con Deborah, una pelle, a parte che ha una voce straordinaria, esatto. Un'attrice fantastica, ma non per usare i superlativi, perché mm-hmm. anche Conti è stato bacchettato perché mm-hmm. usa troppi superlativi, ma aveva, abbiamo visto anche questa pelle bellissima, labbra perfette, denti perfetti, alta, bianchi, magrissima. Alta. Ma io devo dire una cosa, che quelle volte che mi capita di osservare, di visitare persone dello spettacolo, persone molto belle, quindi anche in televisione, che rendono molto bene, hanno anche delle caratteristiche strutturali della pelle che sono particolari, quindi non tutti possiamo aspirare a quello, ad avere la pelle di Paola Cortellesi. Io amo molto studiare la pelle con le metodiche non invasive, e quindi andare a guardarla in profondità. Ci sono delle differenze importanti tra una pelle televisiva e una pelle normale. Ciò non di meno. E per questo noi oggi l'abbiamo invitata, perché lei ci deve aiutare a farci belli, a dare alla nostra pelle tutte le chance per restare bella, luminosa, tonica, fresca. 800 24 00 24, questo è il numero magico. Marta, che cosa ti aspetta per oggi? No, volevo solo dire che, scusate se sono totalmente immodesta, ma vorrei dire che io ho una favolosa pelle radiofonica. quindi lo so, è un po' presuntuoso da parte mia, ma volevo dirlo. Come Jessica Rabbit, non è colpa tua, è che sei non così, è colpa ti, mia. Ti disegnano no, così. Non è colpa mia. Sì. Allora, ragazzi, le canzoni sono state svelate tutte. Oggi il grande brivido sarà quello di vedere chi viene eliminato tra gli altri due giovani, c'è la seconda finale dei giovani. E praticamente ieri grandissimo scandalo perché i due super favoriti sono stati eliminati, quindi diventa anche un po' avvincente la gara dei giovani. Per il resto, insomma, giornata molto molto intensa, abbiamo appena avuto i dati d'ascolto, qui sentite qualcuno magari che suona in sottofondo, ma perché per le vie di Sanremo io sto camminando per Corso Matteotti, anzi tra poco vi faccio, vi twitto una foto da dove sono, perché così vi faccio un po' vedere e le dirette. E mandaci anche una tua foto, perché l'invito allarghiamo naturalmente ai nostri ascoltatori. State inviando le vostre foto, potete farlo via WhatsApp, potete mandarci una mail a cuoredenari@radio24.it, perché con la dottoressa Sparavigna ci occuperemo della nostra pelle, anche se non siamo VIP, vogliamo mantenerle e darle tutte le possibilità per essere bella. Marta, mandaci anche tu la foto della tua pelle radiofonica. In questo momento sono struccata, ho appena fatto un selfie con Michele Bravi in cui mi coprivo la faccia, perché gli ho detto: Michele, diciamo che è un selfie a quest'ora. Io ho bisogno che sia struccata. Esatto. Ah, che paura. Marta, torna presto, buon Sanremo. Ve la mando. Buona giornata. Ciao Marta, presto. Grazie. Allora, il prossimo Sanremo la dottoressa con me. Va bene, ma veniamo anche Deborah e io come due ancelle. Dottoressa Sparavigna, allora, occupiamoci della nostra pelle. 2 metri quadri circa di tessuto prezioso che ci avvolge, ci protegge, ci difende, cresce con noi, racconta chi siamo, quello che abbiamo fatto, facciamo e sogniamo di fare. Ne abbiamo una sola, quindi, come diciamo spesso, teniamola da conto, osserviamola, coccoliamola, accarezziamola. Di questo organo straordinario che abbiamo sempre sotto gli occhi, dottoressa Sparavigna, lei ci insegnerà ad osservarlo con attenzione, perché il primo passo è proprio l'osservazione. Ci sono nel volto delle zone che al suo occhio clinico raccontano danno delle informazioni importanti che lei ci trasferirà, così che noi possiamo farne tesoro e adottare tutte le possibili strategie per diventare belli. Allora, ci vuole metodo, quindi bisogna osservarla in maniera sistematica. Partiamo dall'ambiente in cui questo avviene, deve essere comunque un ambiente illuminato bene e quindi avere uno specchio illuminato tipo quelli dei camerini di teatro può essere veramente molto di aiuto. E bisogna andare ad analizzare i vari segni. Sì. Per esempio, se parliamo del volto, dobbiamo analizzarne il colorito, dobbiamo analizzarle l'uniformità della pigmentazione o meno, le piccole rughe e la loro disposizione, com'è la cute tra una ruga e l'altra, anche questo dice molto sullo stato di lassità, certo, della nostra cute, osservare i solchi, quindi quelle rughe più profonde e più importanti, e osservare la linea mandibolare. Di queste cose noi possiamo anche prendere nota. Se volete poi magari creiamo proprio una struttura anche da vedere sul web. Volentieri. Diamo appuntamento, sì, lì. Con delle scale di riferimento. Questo mi piace. Allora, poi la nostra puntata continua anche dopo Investire Informati, naturalmente sulle nostre pagine social. Guardiamo attentamente la nostra pelle per notare anche dei piccoli cambiamenti, perché stiamo entrando in una stagione delicata, Deborah. Sì. La pelle diventa particolarmente sensibile, si arrossa, prude, molti disturbi cutanei, lo sappiamo bene, si risvegliano sul finire dell'inverno. Dottoressa Sparavigna, penso alle dermatiti, all'acne, ai brufolini, che ormai interessano sempre anche non solo più le ragazzine, ma anche le signore che hanno superato gli ANTA. Anche i signori. Ecco, quindi noi puntiamo sulla prevenzione, giochiamo d'anticipo. Ad esempio, con qualche consiglio spot prima di andare naturalmente proprio in un minuto al nostro GR. Rinforzare la barriera cutanea e non aggredirla, anche se si ha l'acne. Di questo parleremo subito dopo il nostro GR, con consigli anche per pelli particolarmente sensibili che si arrossano, si screpolano, diventano pruriginose, ma naturalmente parleremo anche dei trattamenti che potete fare in questo periodo, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Attenzione, GR, poi di nuovo insieme. Carlo e Maria, Maria e Carlo. Sono Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo al Falco e il Gabbiano la grande sfida tra Cesare Maestri e la montagna del Cerro Torre. Un sogno diventato un'ossessione. Vi aspetto alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere. Sono diventata grande senza neanche accorgermene. E ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere. La mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Certo, tra poco parleremo anche di cellulite e l'ossessione tutta femminile che è finita anche... La maledetta buccia d'arancia. Nella canzone, nel testo di Noemi, nel brano scritto da Vasco e musicato da Curreri. Ma a proposito di Noemi, vi ricordate qual è l'ultima volta che ha partecipato a Sanremo e con quale brano? Questo è il domandone di cuore. Poi ci sarà quello di denari, 800240024. C'è una novità che la dottoressa Sparavigna ci racconterà tra poco proprio per la cellulite. Noi le abbiamo viste a Sanremo perché erano tutte vestite. Dottoressa Sparavigna, ci sono delle indicazioni che vogliamo dare per segnalare alcuni errori che noi commettiamo nella cura quotidiana della nostra pelle, che vanno a vanificare anche tutte le attenzioni a cui dedichiamo. Piccoli errori quotidiani che possono costare caro. Allora, per gli uomini e per le donne. Allora, iniziamo dagli uomini. Possiamo dire che abbiamo già la abbiamo ricostituito le quote azzurre. Brava. In questo studio. Detersione troppo aggressiva, e questa è una cosa che spesso si fa anche per tentare di cancellare i brufoli, le pustoline, e quindi questo non fa altro che peggiorare il problema e peggiorare l'infiammazione di una cute affetta da acne o affetta da dermatite, per esempio. E poi... Perché la detersione invece non aggressiva deve concentrarsi su cui deve rivolgersi, a quali prodotti? Allora, deve essere fatta a base di tensioattivi mild. Sì. E quindi, cosa leggo in etichetta? In etichetta leggiamo soprattutto quelli che... allora... In questo momento non riesco a farvi un elenco. Perché i nomi sono difficili. No, perché sono tanti. In questo momento non riesco a farvi un elenco. Ma piuttosto, invece che guardare gli ingredienti, guardiamo anche il pH. Sì. Cioè, è molto importante che un detergente prometta un pH acido della pelle. Quindi deve avere un pH acido, ma deve anche fare in modo che la pelle lo mantenga. E questo va bene anche per chi ha brufoli, brufolini, che solitamente noi cerchiamo di aggredirli per asciugare la pelle, ma la pelle grassa è una pelle che è molto molto delicata. Sì, secondo me Conti ha una pelle grassa, per questo può fare le lampade e non gli si segna. Beh, no. Ma questa io voglio comunque non semplifichiamo così. Altre indicazioni? Un'altra indicazione molto importante che io vedo nella mia pratica clinica è a volte la scarsa attenzione a quelli che sono i materiali che noi utilizziamo quotidianamente, a partire dallo stesso sapone. Ecco, la barra di sapone, se non è assolutamente individuale e non è conservata all'asciutto, diventa veramente un ricettacolo di germi. Quindi quella acquetta che c'è nel portasapone, brava, il sapone sguazza, ecco, fa male. Lavate il portasapone e deve essere asciutto. E deve essere personale. E deve essere amiamo usare la barra di sapone, donne deve essere difficile, assolutamente personale. Vedo una sembra difficile, vogliamo coinvolgere già subito il tuo esperto. I nostri ospiti, il dottor Bini Smaghi di Arca SGR ha qualche cosa buongiorno. Da dire buongiorno. A tal proposito. Voglio dire, dipende chi va in bagno, se uno c'è la moglie, il figlio. Anch'io ho pensato a mio marito. Tre saponette inizia a essere, no? Bisogno di tanto spazio. Deve regalare un bagno nuovo a sua moglie, ne vogliamo parlare, allarghiamo casa, ristrutturiamo. Certo. Ecco. Bene, quindi facciamo girare l'economia. Oppure detergente liquido ecco, con dispenser. Mi sembra la cosa migliore. Vedi, arriviamo a tutto, ma grazie per il suggerimento perché questo è importante. Poi andiamo alle spazzole, capelle. Sì, sì, i rasoi che utilizzano gli uomini, le spazzole. Che poi rubano anche le donne, perché sì, nelle case succede anche così, chi ha figlie femmine lo sa. Vanno lavati con la stessa frequenza con cui facciamo lo shampoo. Perché altrimenti noi conserviamo dei germi che poi riportiamo a contatto con la nostra pelle. Arrivano richieste SOS brufoli, l'abbiamo anticipato, possono arrivare anche alle persone che non sono più giovanissime, uomini o donne. L'abbiamo detto, attenzione, la detersione deve essere delicata, un pH acido, ma dottoressa Sparavigna, anche lì attenzione all'igiene fondamentale. Sì. Anche il cuscino. La federa andrebbe cambiata più frequentemente che non le lenzuola. E poi se vi truccate, se utilizzate trucchi, spugnette sì, con cui stendete, detergenti, perché sennò l'infezione, chiamiamola infatti, così, progredisce. Abbiamo detto, per rubare gli ultimi minuti, trattamenti che sono da fare in questo periodo per chi vuole fare una ristrutturazione un pochino più così risolutiva. Penso ai peli superflui, perché adesso che scopriremo le gambe tutti saranno preoccupati dei cerette affini, e c'è chi pensa al laser. Chiariamo subito, è una eliminazione definitiva del pelo? No. Perché no. Sono trattamenti tra l'altro che costano e che vanno eseguiti da mani esperte, perché il laser è efficace ma ha anche delle controindicazioni. Dottoressa Sparavigna. Allora, prima ancora di sottoporsi al laser bisogna capire la natura di questa ipertricosi o di questo irsutismo. È veramente fondamentale, perché a volte sfuggono anche dei segnali importanti di patologia interna, di patologia ormonale. Solo una volta inquadrato il quadro clinico si può intervenire con questo tipo di soluzioni, però è veramente molto importante che il tutto venga fatto da uno specialista. Quindi, e soprattutto dicevamo, in un tempo che è questo. È questo, perché poi dopo, siccome nella maggior parte di questi trattamenti fisici la struttura bersaglio del laser è la melanina, quando siamo abbronzati... Non è più possibile farlo. Sì. Prima della novità sulla cellulite, una possibilità che diamo ai nostri ascoltatori, che ha veramente incuriosito Deborah, perché ha trovato delle attinenze con il mondo finanziario, tra la dermatologia, l'utilizzo che la dottoressa Sparavigna fa di un particolare grafico e i grafici che Deborah analizza quotidianamente. L'analisi dei titoli. Allora, ai nostri ascoltatori da domani che cosa possono trovare sulle nostre pagine? Dei grafici? Dei grafici a ragnatela che si chiamano grafici spiderming dal nome del laboratorio che io dirigo e che ci aiutano a oggettivare il grado di invecchiamento della cute del nostro volto. Saranno molto semplici, quindi potete seguire tutte le indicazioni per avere una sorta di autodiagnosi, sì, una fotografia un in monitoraggio diretta anche del vostro stato di salute e del livello di invecchiamento della vostra pelle, per agire poi mirati. Allora, la cellulite, svegliamo che cos'è, se ci sono delle novità. Allora, anche la cellulite non deve essere aggredita. Perché tutti ce la rendiamo amica. Sì, ecco, meglio rendersela amica, meglio accompagnare questo percorso che la cellula fa, che è un percorso di ambiente in cui si trova malato. Quindi la medicina sempre di più sta andando in questa direzione, anche per quello che riguarda gli organi interni. Noi dobbiamo fare attenzione alla matrice extracellulare, perché è l'habitat in cui la cellula può trovarsi bene o può trovarsi male. tutto il resto sono delle conseguenze di questa alterazione di questo meccanismo molto sofisticato che rende l'ambiente della cellula un ambiente favorevole al suo benessere. Ogni anno ci sono delle news, dei nuovi trattamenti, sì, che entrano, altri che cadono un po' in disgrazia. Su che cosa ci verrà proposto quest'anno? Facciamo delle anticipazioni, perché poi quando ci accorgiamo che il problema, che esiste il problema, a giugno, quando andiamo al mare, i dermatologi dicono dovevate pensarci prima, ormai esatto, è tardi, allora pensiamoci quanto ora. Prima, esatto. Allora, la nuova tendenza è comunque quella di fare dei trattamenti biorivitalizzanti, così come li facciamo per il viso. In realtà la stessa attenzione che noi abbiamo per la matrice extracellulare del viso può essere riservata anche alle zone corporee, e questo è molto importante, non tanto per la cellulite, quella allo stadio iniziale, che è più che altro dovuta a problemi circolatori, quando sì, non è complicata da anche una adiposità localizzata, ma quello è un altro discorso, ma soprattutto noi sappiamo che la cute invecchia, la sua cellulite invecchia, ed è quello che dobbiamo prevenire. Invecchia anche la cellulite, ma qua non c'è più religione. Allora, Rosario da Salerno, buongiorno, chiamato, domandone, poi andiamo cuore, alle cose. Buongiorno a voi. Rosario, allora, Noemi. Sì, allora. Noemi, l'anno scorso, 2016, sì, dovrebbe aver partecipato con la canzone La borsa di una donna. Ma non ricordo mai. E se lo dice Rosario, che siamo noi per poterlo smentire? Bravo Rosario, un libro, le mando un libro di denari? Va benissimo. O le vuole, grazie, di cuore, ne mangiamo uno di cuore e uno di denari. Rosario, grazie per averci seguito, vada domani anche lei sulle pagine di Cuore Denari per fare il grafico a ragnatela, per capire, bellissimo, se la sua pelle è perfettamente in linea con la sua età anagrafica. Esatto. No, io penso sempre alla dottoressa Sparavigna quando mi do la crema idratante e guardo sempre se fa la famosa schiumetta per capire se è quella adatta alla mia pelle o meno. Ormai diventacelo qua proprio in testa tutte le volte se che fa la schiumetta non va bene. Non va bene. Sapona. Esatto. Sapona sulla pelle. La pelle, ma respinge. Io per questo vengo volentieri qua. Perché noi facciamo le prove sul campo. Siamo delle vere giornaliste, dottoressa Sparavigna. E mi raccomando, non dimenticate la crema per le mani. Ecco, esatto. Perché ecco, la stretta di mano e il biglietto, esatto, da visita, e se la pelle è delicata è tutta un'altra cosa. Per esempio. Dottoressa Sparavigna, un bacio. Grazie. Ci sentiamo già subito più belle, adesso facciamo le persone. Sì, no, poi tu vedrai, dopo che avremo fatto il grafico a ragnatela qua, esploderemo in tutto il nostro fulgore, in tutta la nostra bellezza. Aspettiamo le ragnatele, esatto, è una promessa. Grazie. Allora, sì, adesso è il tempo, è il momento di cambiare argomento, e noi ci troviamo senz'altro in un momento molto delicato per il risparmio delle famiglie, con rendimenti quasi introvabili o comunque molto risicati, le borse che sono molto nervose per la delicata situazione politica europea ed internazionale, c'è il bail-in, le banche che possono fallire, una dimensione nuova che qualche volta ci spaventa se ci riflettiamo su, c'è il grande tema dell'educazione finanziaria degli italiani, gli italiani che sanno poco, gli intermediari finanziari che spesso vengono accusati di approfittare di questa asimmetria, c'è sfiducia, c'è preoccupazione. Ma ci sono anche aziende che in Italia continuano a sfidare queste difficoltà e provano a crescere, continuano ad investire. Ebbene, questa è la nostra ricca puntata del giovedì, tutta dedicata a questo argomento. Investire informati. Allora, quest'anno nel mondo del risparmio c'è una novità, sono sulla rampa di lancio, in realtà per qualcuno siamo anche oltre, i piani individuali di risparmio, i PIR, un'alternativa creata nel mondo del risparmio gestito con diversi obiettivi. Da un lato incoraggiare il risparmio a medio e lungo termine, dall'altro far confluire capitali freschi verso l'economia reale. Come? Lo spiegheremo questa mattina. È vero che le strutture di costo però di questi nuovi prodotti di investimento rischiano, come già qualcuno ha contestato, di vanificare tutto il vantaggio fiscale identificato molto chiaramente dalla legge. Quindi insomma ci sono tanti obiettivi importanti di questi nuovi strumenti di investimento, ma anche qualche criticità che è stata sollevata. Allora noi stamattina proveremo a chiarire ogni dubbio con Claudio Tosato, direttore prodotti di Anima SGR. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno.